Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno caro ascoltatore del 24, in questo sabato post anniversario della vittoria. Come sempre, il fine settimana comincia con il nostro appuntamento, così siete tutti invitati, i Conti della Belva. Dico parlare di Conti della Belva, oltre a Oscar Genio che vi saluta in diretta qui dagli studi di una piovosissima Milano. Per il momento, oltre a me, c'è solo Mario Seminerio. Ma è entrato in questo secondo puntualissimo come uno svizzero, diciamo così, ogni volta. Svizzero, ma diciamo, come del uno sud, svizzero di Amalfi. Crepa cuore. Caro Alberto Carnevale Maffè, buongiorno a tutti. Dovreste vedere com'è conciato, sembra che stia scendendo da... Sai, presente nelle ultime serie, i prequel, le astronavi oramai scassate, no? Ecco, è così, sembra uscito dal bar di Guerre Stellari, più o meno, ecco. tutto penosamente gocciolante, va bene, ecco. Allora, cari ascoltatori, come sempre brevissima sintesi dei temi trattati oggi nella nostra trasmissione per consentirvi di riflettere e mettere il ditino su uno dei vostri tanti smartphone che avete, quello nella tasca dietro che nascondete a vostra moglie, la vostra compagna, per i vostri messaggini. Utilizzatelo invece molto più sanamente per chiamare Conti della Belva. Di cosa parliamo oggi? Abbiamo una prima metà della puntata, cioè mezz'ora, in cui facciamo una riflessione su che cosa sta avvenendo dopo il rituale inizio della trasmissione con i contrappunti rispetto a ciò che è venuto in settimana, affidati al nostro infaticabile e linguopuntuto Mario Seminerio, e ce n'è questa settimana, devo dire, da dire, ce n'è. Ma detto questo, noi cominciamo con una riflessione che mette insieme alcune novità emerse nel mondo bancario italiano, perché... da una parte abbiamo il Monte dei Paschi che nell'assemblea, alla relazione in vista della sua assemblea, dice che vuole trasformare non solo le obbligazioni subordinate ma anche quelle senior, cosa che ha fatto fare un salto sulla sedia a noi tutti. A voi tutti, cioè, ecco. Oscar, l'avevamo scritto. Sì, però capisci, spiegheremo che questa è una cosa che vuol dire tante altre cose. Bisogna capire, identificare questo messaggio. Dall'altra parte, le quattro good bank, la cui valutazione si è rivelata un po' ottimistica da parte del regolatore a novembre dell'anno scorso, pare che abbia un compratore, ma questo compratore, cioè UBI Banca, dice che i crediti deteriorati che diventano sofferenze se li deve prendere il fondo interbancario. Il fondo interbancario prende gli NPL adesso, bah. Insomma, ci sono tante cose. C'è Carige che scrive al regolatore europeo dicendo: no, tu mi hai chiesto di alzare al 42% la copertura dei crediti degli incagli che poi diventeranno sofferenze, io invece ti dichiaro che la abbasso al 25%, cioè tutte cose, e i giornali che applaudivano, e lui dice: ma viviamo in scherzi a parte, evidentemente. E quindi per i risparmiatori e per il certo mercato finanziario italiano sul settore delle banche faremo una riflessione su questo. Dopodiché, dopo il giornale radio, il problema che ci poniamo invece è: ma visto che arriva adesso l'elezione negli Stati Uniti, martedì, è una sopravvalutazione dei mercati, è un difetto dell'informazione aver sopravvalutato l'evento sismico, addirittura Armageddon se vince Trump, al di là di farselo piacere o meno, non è che c'è un eccesso di esagerazione in tutto questo? Cosa vuol dire, qui io ridacchio un po', la sentenza dell'alta corte su Brexit nel frattempo? Quante contraddizioni in pochi giorni tra la Vallonia, la cui assemblea viene piegata dalla volontà dell'Unione Europea, mentre in Gran Bretagna è il governo che deve piegarsi alla democrazia rappresentativa, cioè al Parlamento. Capite che comunque c'è una crisi di legalità e sovranità. Ma noi partiremo soprattutto dagli Stati Uniti. Che altro, cari compari, oltre a questo? Mario, in settimana ti ha colpito? Ma sì, io forse ne parleremo anche dopo. Mi ha colpito questa indagine dell'antitrust, no? L'indagine dell'antitrust su Veneto Banca, che concedeva finanziamenti dietro sottoscrizione e acquisto di sue azioni. Questo è un classico, come dire, cold case io mi chiedo, l'antitrust dove mai avrà avuto questa notizia criminis? Fai capire che sei ironico, perché sennò no, beh, sto usando anche un tono di voce abbastanza ironico. Vabbè, sono ironico. Voglio dire, all'antitrust leggono i giornali, solo che probabilmente leggono quelli di alcuni mesi fa, per cui diciamo c'è una sorta di ritardo di percezione. Poi mi è stato fatto notare che l'antitrust non ha poteri di enforcement, eccetera. Ragazzi, non prendiamoci per il culo, giusto per usare un francesismo. Ah, ecco. Il problema non è l'enforcement, il problema è fare valutazioni e indagini non a babbo morto e a cadavere gelato, ma in corso d'opera. Dopodiché procedere. No, se deve procedere l'antitrust su una materia dove l'antitrust verosimilmente certo è competente, ma arriva dopo, esatto, i vigilanti naturali e i regolatori naturali della banca, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando della classica cosa dell'italiano, appuntarsi una medaglietta. Ho capito, però questo ritardo di percezione di intervento, appuntarsi una medaglietta, cioè veramente, sì, appuntarsi la medaglietta, non diciamo di cosa però. Esatto, perché tanto poi i regolatori si guardano bene dal farlo in temporale quando servirebbero, e quando anche alcuni giornalisti lo scrivevano, questo alzo il tono della voce, perché sto parlando di 8 anni fa, cari regolatori italiani compiacenti col signore che sta in Sudafrica, con il signor Consoli che non sta in Sudafrica, però io, per me quello che sta in Sudafrica è peggio, a dire la verità. Detto questo, invece, Carlo Alberto, mi consentite di non parlare di banche per 5 minuti? Certo. Voglio parlare di Facebook, perché la sentenza del Tribunale Nord Napoli è rivoluzionaria, in quanto impone alle piattaforme di social media la rimozione dei contenuti su richiesta degli utenti. E qui siamo, secondo me, di fronte a un nuovo punto importante di cosa vuol dire fare giornalismo, fare media, gestire il dibattito. Io dico subito che non sono d'accordo. Nemmeno io. Non sono d'accordo. Lo dicevamo prima che arrivassi. E non sono d'accordo, perché è come chiedere a Facebook di fare il poliziotto. Certo. Il poliziotto della morale, cioè sai, di Bernabé ne abbiamo avuti uno e tutto sommato ci basta. La verità è che questa sentenza però si scontra proprio con la giurisdizione, il principio della libertà di parola, posto che Facebook ha delle politiche importanti, già severe, secondo me, di rimozione di contenuti discutibili in termini di nudità, di aggressione, di violenza, quindi è già molto attivo a ripulire. Francamente, che si debba fare lo spazzino dei giudizi, anche delle offese personali, secondo me non è corretto. Ti dirò che prima stavamo discutendo di questo, decisamente era partita la discussione tra me e Mario, che la pensiamo allo stesso modo come te, non ci siamo parlati prima, era partita da due cose: da un articolo di Beppe Severgnini oggi sul Corriere della Sera, che io non condivido assolutamente, che dice che Facebook non si può permettere di essere considerato un hosting provider, che appunto ha doveri molto diversi da quelli di un editore, no? L'editore è quello chiamato a fare quello che dice il tribunale, è quello che ha sintetizzato adesso Carlo Alberto, e utilizza poi per sostenere il fatto che invece deve fare il suo dovere di editore e non deve sottrarsi, gli argomenti che sono i profitti di Facebook. Allora, mi spiace Beppe, non ci siamo proprio con questa impostazione, è sbagliata dal punto di vista teorico e fattuale, non c'entrano niente innanzitutto gli utili, se non per un pregiudizio così anticapitalista, posso dire. Ci ho detto, esatto. Ricordo a tutti che Facebook per tante persone fino a qualche anno fa era una specie di scherzo della natura, esatto, che si capiva bene come stesse in piedi, sì, no? Mentre oggi tutti lì a criticare. Secondo pretendere che Facebook abbia, visto l'alto tasso di litigiosità poi degli italiani, decine di migliaia di persone che tutti i giorni monitorano e scrutinano, capisci che cosa si dice, è proprio non aver capito queste cose, su cui mi dispiace, insegnate al pubblico da anni cosa sono i nuovi media. Poi quando Facebook diciamo dà delle sanzioni, quindi sospensioni e quant'altro, questi probabilmente questi stessi personaggi saltano su con il free speech del tipo libertà di espressione, di pensiero e di parola. Per cui, cioè, siamo sempre e comunque in modalità teatrino. Certo. C'è sempre un bisogno di della babysitter in questo paese. E anche Antonio Lozzoro, l'ex politico che oggi è garante della privacy, dà interviste con colpo cerchio la botta, in cui si capisce che devono essere sì gli utenti a capire che se ci si insulta o se si mettono in pubblico i nastri o i video porno eccetera eccetera, poi se ne perde la titolarità del controllo, ma dall'altra anche lui cede qualche punto all'ideologia anti-facebookiana, quindi siamo d'accordo su questo. Io vi aggiungo solo una cosa: ho trovato in settimana ridicole, anche se ho deciso di non dedicare a questo il nostro appuntamento settimanale sulla comunicazione felliniana da discutere, perché quella la dedicheremo alle 11:30 alle osservazioni critiche che la Germania ha riservato a Draghi, ma la dichiarazione del Presidente del Consiglio in cui ha detto è impensabile che le scuole italiane crollino perché ce lo impone la stabilità finanziaria europea. Allora, mi dispiace signor Presidente del Consiglio, le scuole italiane crollano, la Merkel non c'entra un cazzo di niente, crollano perché le abbiamo costruite tanti anni fa, poi non le abbiamo mantenute, non le abbiamo costruite di nuovo, crollano per i cicli elettorali della spesa italiana, e a questo punto dire alla gente che è europea la responsabilità è demagogia pura, irresponsabile, intollerabile da un Presidente del Consiglio. Lo dico con tutta la durezza del caso, perché quando un Presidente del Consiglio inizia a parlare come l'ultimo comiziante che cerca voti, sì, come Radio Maria, che la colpa dei terremoti, esatto, carissimi, delle perversità. Vabbè, degli poi esseri si è aggiunto umani. Anche Vauro, no, con la sua vignetta dove praticamente faceva il controcanto di Radio Maria, diciamo. Va bene, tra un minuto. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qua in diretta a compare dei conti della Belva, Mario Sebinerio, Carlo Alberto. No, che poi dicono, ma poi dicono che tu c'hai una valanga di nomi e cognomi. Io sono nato così, cioè non è che sono proprio il primo giorno di vita ed ero già conciato in questa maniera. Esatto. Cioè, renditi conto. Carlo Alberto già dalla scelta è un nostalgico dell'inflazione, si capisce? L'inflazione no, beh, alla fine è vero, è vero. D'altra parte è una misura nominale questa, esatto, no? Nomina nuda tenemos, ma anche come vedi, nell'euro. Allora, la sigletta. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupate. Allora Mario, da questa settimana da che cosa partiamo? Ma facciamo una piccola ricognizione sul dato del mercato del lavoro. Anche questo mese, diciamo, è uscito piuttosto bene. 45.000 nuovi occupati nel mese, dei quali però sono tutti lavoratori autonomi, non ci sono lavoratori dipendenti. Però, diciamo, l'aumento del tasso di disoccupazione pare essere frutto del reingresso nella forza lavoro di persone. Ora, io qui vorrei citare una considerazione che ha fatto Francesco Seghezzi di Adapt commentando quel dato. È certamente vero che ci sono persone che stanno rientrando nel mercato del lavoro, resta da capire qual è la determinante dei motivi di questo rientro, cioè perché si ritiene che il mercato offra effettivamente opportunità o perché si ha uno stato di necessità vieppiù impellente di rientrare? Questo è, so che mi accuseranno di disfattismo, no, eccetera, eccetera. È una domanda, ma questa, noi non l'abbiamo, questa la è una chiave di lettura. Io vi offro, diciamo, la considerazione di Francesco, che è assai meno estremista di me. Lui non lo è affatto, peraltro, lui si limita a fare delle analisi molto efficaci. Poi, sicuramente il dato più importante è che c'è stato questo vero e proprio crollo degli inattivi. In un anno abbiamo oltre 500.000 di inattivi in meno. Ma spieghiamo cosa vuol dire, sono svegliati o si sono finalmente messi a cercare un lavoro, Mario? No, ma gli inattivi sono composti da più categorie, no? Ci sono i pensionati, e questo è un dato di flusso, cioè se meno persone entrano nella categoria dei pensionati perché sono trattenute sul lavoro da varie Fornero, norme eccetera, cose belle, esatto, come? È chiaro che automaticamente il numero di inattivi si prosciuga dinamicamente. Questa è una cosa che tutti i nostri grandi analisti e politici forse tendono a dimenticare, e poi non è un caso, io volevo citare un grafico molto ben fatto, molto visivamente impattante di Marta Fana sulla variazione degli occupati per classi di età dal febbraio 2014 al settembre 2016. Lo trovate anche sul mio sito nel post attuale, che è il settimanale, e come potete vedere il boom vero e proprio è tutto degli over 50, mentre i 25-34 hanno lievemente perso occupazione, i 35-49 anni ne hanno persa di più, i 15-24 ne hanno recuperata qualcosina. Beh, noi abbiamo addirittura poco meno di 1.000.000 di over 50 che risultano occupati da febbraio 14 a settembre 16 in più. Allora, siccome l'inattività, ripeto, è fatta di gente scoraggiata, oppure gente che sta studiando, o gente che aspetta gli esiti di precedenti ricerche di lavoro, o pensionati, eccetera, e poiché la permanenza sul lavoro sta progressivamente allungandosi per motivi normativi, pensionistici, eccetera, attenzione che almeno una parte del fenomeno si riconduce otticamente al fatto che col passare del tempo più persone over 50 sono costrette a restare sul lavoro e quindi vanno ad aumentare il numero degli occupati. È un concetto dinamico di traslazione della corte anagrafica. Non è la spiegazione unica del sta aumentando l'occupazione. Preciso anche questo perché poi me la menano dicendo che sono fazioso. Però questo è un dato che va seriamente analizzato. Sì, anche perché questo dato, se consolidato poi nel tempo, e pone un problema crescente, come se già non ci fosse, sull'equilibrio intergenerazionale dei conti di sostenibilità, perché in un sistema a ripartizione, ricordiamolo sempre ai nostri ascoltatori, in un sistema a ripartizione ricordate che i contributi li devono dare le corti più giovani, che devono essere al lavoro in numero sufficiente, in percentuale sulla corte, perché altrimenti mese per mese i contributi non sono sufficienti, come già non sono sufficienti da anni, a pagare il monte pensioni, e quindi bisogna ricorrere alla fiscalità generale. Però fatemi fare un commento sui produttività. La mancata uscita non corrisponde all'effettivo ingresso, perché la mancata uscita di un over 50 non ha gli stessi effetti industriali ed economici dell'ingresso di un trentenne, proprio in termini di potenziale che si esprime. Certo, no? Cioè, se noi andiamo a proiettare questo sul potenziale della produttività del paese, otteniamo un trascinamento e non un'iniezione. Quindi in questo senso non sono neutre, cioè purtroppo uno non vale uno in questo caso. Ovviamente. Cioè, un cinquantenne non vale un trentenne, ed è importante capirlo, vuol dire che non riusciamo ad attrarre dentro il sistema delle professioni italiane, non riusciamo ad attrarre cultura giovanile. Infatti. Allora, io volevo semplicemente aggiungere una riflessione sul fatto che ieri l'audizione al Parlamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan sul complesso della legge di bilancio 2017 e manovra pluriennale dei due anni che è compresa nella legge di bilancio, come sapete, mi ha lasciato molto interdetto, perché mentre lo ascoltavo mi rendevo conto che le cifre non tornavano con le cifre che sono quelle su cui tutti noi giornalisti abbiamo lavorato quando, dopo due settimane, è uscito il testo della legge di bilancio a due settimane dall'approvazione con le prime slide. E vi dico, cari ascoltatori, solo una cosa, che è quella fondamentale su cui ho fatto un salto dalla sedia, perché Padoan, nella sintesi riepilogativa che ha fatto oralmente, ha dato molta enfasi al fatto che nel 2017 ci sono minori entrate, quindi sgravi fiscali per 23,4 miliardi di euro. Io ascolto e dico: ma sono andato a rivedere le tabelle della legge di bilancio, che sono le stesse su cui, per esempio, il professor Francesco Daveri, anche lui dopo l'uscita della legge di bilancio e alla luce della lettura delle 518 pagine di relazione tecnica, fa il post che trovate sulla voce.info. Quindi sono proprio preciso apposta, perché su queste cose, se fai un'obiezione sui numeri, devi essere preciso. Ebbene, guardate che nelle tabelle i 23,4 miliardi di sgravi fiscali del 2017 di cui ha parlato Padoan e che oggi trovate su tutti i giornali italiani, io non so cosa dire, ma non tornano, perché nelle tabelle della legge di bilancio c'è scritto che minori entrate disposte sono per 16,2 miliardi e che le maggiori entrate invece sono per 10,7 miliardi, minori per 16,2, maggiori per 10,7, quindi la variazione netta delle entrate è di meno 5,6 miliardi. Allora, una variazione netta di meno 5,6 miliardi, che diventa 23,4 nella sintesi del ministro, io mi limito a dire: avranno cambiato di nuovo i numeri delle tabelle. Del resto stiamo assistendo da tre settimane. Però, come vedete, l'ordine di grandezza è assolutamente molto rilevante, no? Vi ricordo anche che, per quello che riguarda le uscite, la legge di bilancio 2017 stabilisce maggiori uscite per 19,5 miliardi e di questi 19,5 miliardi 15,5 sono di maggiori uscite correnti e minori uscite per 10 miliardi, quindi con un saldo netto, stiamo parlando adesso della spesa, di più 9,4 miliardi. E non so che cosa dirvi, io sono senza parole di fronte al fatto che tutti oggi lo scrivano senza che nessuno si ponga la domanda di verificare. Cioè, questi 23,4 miliardi, da dove saltano fuori? Possiamo noi dire ai nostri elettori che sono 23,4? Il ministro dice che sono 23,4, però siccome avremmo dovuto fare tutto il nostro mestiere e aver studiato l'ennesima versione, quella però ufficiale, pubblicata, della legge di bilancio con le relative tabelle, sti 23,4 qualcuno me li spiegherà nel frattempo. Comunque. Posso dire una cosa sul tema delle clausole di salvaguardia disinnescate che, come dire, da una parte rappresentano, secondo me, un atto irresponsabile da parte dei governi che le hanno scritte, perché non è serio sostanzialmente prevedere una polizza assicurativa a carico di chi verrà dopo se si sono sbagliati i conti quando si fanno le leggi finanziarie. D'altra parte, pretendere, come fa il governo, di dire che è una riduzione di tasse è un'operazione teorica, non è un vero taglio, è un abbiamo scherzato. Meno male che, spero insomma, che la posizione di clausola di salvaguardia verrà limitata o abolita nei prossimi anni, perché oggettivamente non è così, perché nel 2018 e 2019 l'intero pilastro venduto all'Europa di ciò che per quest'anno, l'anno prossimo invece ancora si rinvia, cioè la diminuzione del deficit corretto per il ciclo, deficit strutturale e il conseguimento progressivo per arrivare vicini all'azzeramento del deficit corretto per il ciclo, è integralmente affidato alle clausole per il 2018-2019. Quindi, ed è anno elettorale, tra l'altro. Quindi a me risultava che non fossero più possibili, invece non è così. Anche a noi, perché nella riforma della procedura del bilancio c'è scritto così. Quindi allora, però il governo, io come al solito, scambio la legge per la realtà. La realtà è chi se ne frega. Le hanno messe, è il pilastro addirittura dal punto di vista quantitativo. Beh, comunque fammi dire che non sono d'accordo. Dire che l'uso delle clausole di salvaguardia è un modo per calciare le lattine lontano di 3 anni. E poi toglierle è un'altra operazione a fumo negli occhi, perché palesemente stai prendendoti i meriti di un'operazione tutta sulla carta. Ma chi ha messo le clausole di salvaguardia? Cioè, c'è un nome e un cognome. No, tutto in questa legislatura è avvenuto. Assolutamente. 15 miliardi su 18 sono esclusivamente stati prodotti in questa legislatura. Anzi, da questo governo, non in questa legislatura, tutte in questa legislatura. Ma dai, lo sai che lui ha detto che le ha ereditate. 3 sono di Letta e 15 sono di Renzi. 3 sono di Fino Letta a prova numerica del contrario. Prego, fatevi sotto se riuscite a confutare questa affermazione. Noi siamo tenacemente come cozze sullo scoglio, radicati su questo metodo. Producetici numeri in grado di convincerci del contrario, perché altrimenti i numeri hanno una logica pressoché indefettibile. Torniamo tra poco. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Della belva. Eccoci qua, cari ascoltatori, siamo tornati in diretta alle 10.34, primi e 17 secondi, qui compare di Conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora, ragazzi, questa settimana si sono concentrate alcune cose che ci hanno colpito in serie. La prima è, non solo se avete denari MPS, o avete titoli MPS, quello vi consiglio, se non avete ancora fatto, di farlo sul sito della banca, trovate la relazione in vista della prossima assemblea con le proposte di delibera oltre alla relazione per le manovre necessarie per il salvataggio della banca, quindi l'aumento di capitale eccetera eccetera, e tutti noi abbiamo fatto un salto sulla sedia perché nella relazione che dà conto del fatto che nel roadshow del nuovo amministratore delegato non hanno convinto nessuno, in parole povere, nel mondo, e a un certo punto si dice esplicitamente dipende tutto dal referendum, io ho iniziato a sogghignare perché questa cosa che MPS dipenda dal referendum, cioè è una correlazione spuria, per così dire. Non vedo proprio cosa c'entri il referendum con ciò che negli anni ha portato l'Istituto di Siena in queste condizioni, ma al di là e a netto di questo giudizio politico, propone un ulteriore passaggio di fase rispetto a quello che da quest'estate sappiamo essere parte dell'aumento di capitale, e contestualmente parte anche una delle tante ragioni per cui hanno restituito al mittente le proposte di Corrado Passera, non consentendogli la due diligence che chiedeva, e cioè alla proposta volontaria di conversione delle obbligazioni subordinate se ne aggiunge una anche relativa al senior. Ci ha fatto fare un salto sulla sedia questa cosa, perché in teoria e anche in pratica non si può convertire una senior se non sono convertite tutte le obbligazioni subordinate, capite? Perché hanno proprio le seniority, servono proprio a distinguere questo livello, per così dire. Quindi io l'ho presa come un messaggio politico al governo: caro governo, al di là del referendum, o ci trovi davvero l'investitore che noi non abbiamo più forza propria per trovare, o altrimenti ti combiniamo un casino tale che succede un fungo atomico in Italia. Prima cosa. Seconda, può essere che mi sbagli, questo è il mio giudizio. Seconda cosa, apprendiamo che nel frattempo Carige da Genova, un'altra delle sorvegliate speciali, dice no alla vigilanza europea per i tassi di copertura dei suoi incagli, che la vigilanza europea gli ha chiesto di far salire il 42% e dice no, io li abbasso il 25%. Faccio un salto sulla sedia, ma trovo che i media italiani sono tutti favorevoli. Ma sì, Carige glielo dice a quei tecnici europei che vogliono sempre inventare delle cose per mettere in difficoltà le banche italiane. Terza cosa, si legge che si avvicina l'accordo ormai per levare il good bank da parte di UBI. Ma si ha perché? Perché l'UBI avrebbe ottenuto il fatto che i crediti deteriorati, che continuano a diventare sofferenza nella Good Bank, però se li becca il fondo di tutela dei depositi, il fondo di tutela dei depositi che già ha impegnato annualità per salvare con questi bei risultati i posti dove è entrato, e che spiega perché ieri l'amministratore delegato di Banca Intesa ha detto: oh, sia ben chiaro, Intesa non mette più soldi in banche scassate se non ci obbligate con i carabinieri. Praticamente così. E Intesa, che ha presentato una gran bella trimestrale. Anche ieri Mediolanum ha passato gli esami della BCE, cioè, diciamo che in Italia non è che ci sono solo banche messe male, per fortuna qualche banca messa bene c'è, cioè, sta facendo un sacco di soldi. Una gran bella trimestrale, ha anche un cost income ratio, cioè costi fissi sul totale delle cose, che dicevamo prima con Mario, molto significativamente migliore di quello di media, inferiore al 50%. Tanto per dare un'idea, abbiate presente che Vicenza e Veneto Banca ce n'hanno uno al 97% e l'altro al 103%, che dà come l'Inter dei tempi d'oro, ti ricordi? Che dà l'idea, purtroppo, lo dico sottolineato, purtroppo, di quante migliaia di dipendenti resteranno a casa. Però insomma, il fondo interbancario si impegna a prendere anche i nuovi NPL che vengono da incagli delle quattro banche, perché altrimenti UBI non le paga e vuole pagare di meno per comprare. Allora, queste cose messe in fila, che naturalmente sui giornali italiani oramai le considerano cose di ordinaria amministrazione, descrivono uno scenario che continua a essere molto molto molto preoccupante per le banche italiane. Poi possono raccontarvi che si deve al referendum, ma si deve a tutt'altro, con tutto il rispetto. Però naturalmente anche questa settimana non sono mancate le dichiarazioni ufficiali di Padoan da una parte della Banca d'Italia, che dice che se la Banca italiana sta in salute perfetta. Allora, queste sono le cose che preoccupano noi. Abbiamo chiamato un ospite tra i fondatori di Advice Only, Raffaele Zenti, che abbiamo sentito spesso tra una volta anche di fronte a un conto, diciamo così, dei profitti un po' impropri del risparmio gestito alle spalle dei risparmiatori, che non hanno trovato alcuna smentita, e si trattava di una somma di 23 miliardi di euro l'anno. Io ne riconosco sempre un grande merito a Raffaele Zenti e a chi lavora con lui in Advice Only. Grazie di essere con noi, Raffaele. Grazie a voi e buongiorno. Ci dici come... Partiamo da questa storia della conversione dei senior annunciata da MPS. Dal punto di vista del mercato e di chi ha i soldi lì e complessivamente del settore bancario italiano, che cosa ci dice questa cosa secondo te? Ma anche io sono saltato sulla sedia quando ho letto la notizia, perché comunque bisogna tenere presente che il debito bancario e in buonissima parte in mano ai risparmiatori, quindi al retail, Posso darti due cifre, Raffaele, se vuoi, perché le ha pubblicate Banca d'Italia recentemente, sono tra l'altro molto aumentate, cioè ci sono più del 35% delle obbligazioni in mano alle famiglie che sono o subordinate o strutturate, quindi esatto, la sì. quota di senior, la quota di ordinaria è diminuita notevolmente, stiamo parlando di su un totale di oltre 600 miliardi di obbligazioni emesse, oltre 200 miliardi sono ancora in mano alle famiglie. Orrore! Quindi, posso dire, non riguarda soltanto i pochi, esatto. Diciamo, di una banca di Siena o di una banca di Genova, ma riguarda veramente tantissimi. Anche perché rispetto ai dati mondiali l'Italia è la quota che al mondo ha più obbligazioni bancarie sul totale del proprio patrimonio. E diciamolo, grazie alla piena connivenza dei regolatori italiani, la Banca d'Italia e la Consob, lo dico proprio a voce alta, che hanno sempre in questi anni difficili, non è sempre stato così, ma in questi ultimi anni è stato così, hanno proteso il proprio consenso al fatto che era un canale di funding meno caro di altri per le banche. Questa è stata la ragione, è pure scritta nei loro documenti. Naturalmente poi, se ci si trova esposti al bene, la colpa è degli altri, ma invece il motivo di quei 200 miliardi in pancia alle famiglie italiane è la piena, totale collusione e connivenza del regolatore con pessime pratiche bancarie italiane. Chiusa parentesi, Raffaele. Sì. Sono totalmente d'accordo. Fatto sta che questo adesso è il problema sul piatto e appunto MPS non con questa per adesso è un'ipotesi. L'hanno scritto, si è detto, ma spero che non sia ancora, non ci sia nulla di certo, però è un'ipotesi che è davvero inquietante, no? Per cui MPS non finisce di essere quella sorta di compendio, di grande compendio dei problemi a cui può andare incontro una banca mal gestita e delle cattive azioni che può fare. Questa azione, anche se non verrà mai portata a termine, ha il grosso difetto di comunque di, speriamo di no, però di generare panico nei risparmiatori. Sui mercati finanziari e con i risparmi sono importanti i numeri e i fatti, ma sono più importanti le interpretazioni di questi numeri e dei fatti. Quindi se si scatena una reazione, se c'è la paura, ecco, questa cosa qua può però Raffaele, fammi fare il bastian contrario. Va bene la paura, però bisogna anche mettere sul tavolo la consapevolezza. Cioè, siccome le banche che devono fare aumenti di capitale non hanno accesso al mercato, questa è la verità. Cioè non riescono a raccogliere, peraltro con la redditività promessa mi sembra veramente improbabile che lo avvenga, a raccogliere capitale di rischio. E cosa bisogna fare? Me lo spieghi tu? Lo Stato non può più intervenire ed è giusto così. L'unica strada, e ripeto, mi spiace autocitarmi, ma l'abbiamo scritto, se non sbaglio, a gennaio di quest'anno, sul 24 ore e sul Financial Times. Visti i conti della fine dell'anno scorso, era chiaro che non c'era più accesso al mercato. Gli unici soldi a disposizione, e sono legalmente a disposizione, almeno per quello che riguarda gli strumenti subordinati, per rimpinguare il capitale delle banche che manca, sono le conversioni, prima volontarie e se necessario purtroppo forzose, dei bond. Vogliamo cominciare a dirlo in maniera chiara questo? Allora, per ritornare su questo che dice Carlo Alberto, cari ascoltatori, il meccanismo della conversione delle subordinate e poi graduando, no? Secondo la signorità, è quello della BRRD. Non solo della BRRD, perché anche prima funzionava in maniera non molto diversa. Il punto è che, per non dire che bisogna seguire il sentiero della BRRD, ci si inventa delle cose che fanno sobbalzare. Perché, come ha detto Carlo Alberto, e come è chiaro, almeno noi ve lo ripetiamo da un anno e mezzo, da prima della risoluzione delle quattro banche a novembre, il punto è che seguire la strada della direttiva implica: non puoi andare sul mercato, bene, allora devi fare questo e questo, lo puoi fare in fase di recovery prima che scatti la risoluzione, e allora a quel punto devi dire: signori, lo swap diventa obbligatorio per tutti coloro che hanno delle obbligazioni subordinate, poi se non basta arrivi ad altro. Qui invece, siccome siamo tutti contro la BRRD, però ci inventiamo dei pasticci terribili. Ma a me interessa, spero, anche l'opinione di Mario. Sì, perché allora, adesso Mario è libero di parlare su questo istituto. Ma sì, dunque, anch'io sono rimasto abbastanza colpito da questa ipotesi di conversione delle obbligazioni senior, o senior, come dicono i latinisti, in azioni. C'è da dire che la banca, Monte dei Paschi, ha precisato che è un'ipotesi residuale. Però applichiamo uno straccio di teoria dei giochi. Se io fossi un obbligazionista senior del Monte Paschi, mi spiegate per quale motivo, lo chiedo anche a Raffaele, per quale motivo giusto. Io dovrei convertire? sapendo che se io non converto non mi danno un benefit, io non sono interessato a diventare azionista perché voglio la cedola, eccetera. Ma se io non converto e per caso il Monte Paschi, Dio non voglia, va in risoluzione, cioè avviene il bail-in, vengono colpiti i subordinati fino all'8% del passivo. Cioè, per quale motivo un obbligazionista senior deve essere tirato per la giacchetta con una conversione volontaria? A me dà più che altro l'idea che, poiché non esistono investitori azionari potenziali, stiamo arrivando a veramente tirare fuori dai cassetti di tutto. Sì. Un mio caro amico ieri mi ha fatto la battuta dicendo: di questo passo chiederanno ai dipendenti del Monte Paschi di convertire in azioni i loro buoni pasto. Per cui, cioè, questo è il punto, quindi volevo anche sapere, questo mi pare segnale un messaggio politico di, al governo, o un segnale politico al governo, o comunque un messaggio abbastanza problematico dell'assenza di investitori azionari, quindi volevo chiedere anche a Raffaele una valutazione. Raffaele, però la risposta ce l'hai tra un minuto, perché intanto dobbiamo avere un minuto di informazione dovuta. Va bene. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati con i compagni di Conti della Belva e stiamo ragionando del perché, delle ragioni possibili per interpretare questo accenno che si fa nella relazione in vista dell'assemblea del MPS, l'aumento di capitale alla conversione volontaria anche dei bond senior, non solo delle obbligazioni subordinate, dopo avervi detto che questo è un tema che riguarda, perché ci si arriva per la prima volta, MPS che sta male da anni, però riguarda le famiglie italiane, visto che detengono una percentuale di obbligazioni bancarie che non è uguale in tutto l'Occidente. Anzi, su questo c'era Carlo Alberto che faceva una riflessione. Sì, che riguarda anche la classe dimensionale delle banche, sì, che ha venduto le obbligazioni alle famiglie, perché ci lamentiamo tanto di qualche grande gruppo bancario che però tutto sommato si è limitato a vendere alle famiglie sì e no il 35-40% no, delle proprie obbligazioni. Diciamo che ci sta, no? La verità è che le piccole banche, le banche minori, hanno venduto più del 90% delle obbligazioni bancarie alle famiglie. Ti trattasi di obbligazioni, tra l'altro, spesso che sono anche di tipo subordinato o strutturato, quindi obbligazioni che sono esposte al rischio di conversione, in questo caso forzosa, nell'evento di una sia di una recovery e sicuramente di una risoluzione. Allora, torniamo alla domanda che era rimasta pendente prima dell'interruzione a Raffaele Zenti, tra i fondatori del Advice Only, che è con noi, stimatissimo da noi, che è con noi. Allora, qual è la tua risposta, Raffaele? Sì, mi piace tantissimo, richiama la teoria dei giochi di Mario Seminerio. È chiaro che di fronte all'alternativa, ammesso che facciano questa proposta ai detentori di obbligazioni senior, la proposta di convertire in azioni, l'alternativa dell'obbligazionista potrebbe essere: converto oppure sto fermo e vediamo che cosa succede. Non c'è nessun incentivo a convertire subito, converrebbe chiaramente aspettare e Dio non voglia che ci sia che si vada per il peggio, eventualmente andare a vedere come finisce in un'ipotesi di bail-in. Il motivo per cui alcuni risparmiatori potrebbero convertire è il motivo per cui si sono comprati tanti bidoni di prodotti finanziari nel tempo, cioè un'astuta azione di marketing e di vendita che li convinca a fare questa conversione. Ma ripetiamo, però, si tratta di un'ipotesi, è stato detto più volte, è un'ipotesi. È chiaro che quando se ne comincia a parlare, poi ecco, le ipotesi diventano sempre più concrete, però non... Però Raffaele, fammi fare anche due dati tipo duration. Allora, ci sono 120 miliardi circa che scadono entro la fine dell'anno. In totale, entro la fine del 2017, quindi stiamo parlando di 14 mesi, scadono, se non sbaglio, 25 più 15, scadono il 40% delle obbligazioni emesse. Sono tanti soldi che bisogna in qualche maniera stringere prima che scappino, non so se mi spiego. Quindi non abbiamo tantissimo tempo per prendere queste decisioni. Certo. È chiaro che è una situazione estremamente critica. Del resto, la mossa del scrivere nero su bianco sulla comunicazione per l'assemblea degli azionisti che non verranno prese decisioni importanti fino a che non verrà conosciuto l'esito del referendum, cosa che secondo me è abbastanza demenziale e irresponsabile, la dice lunga sullo stato di disperazione e l'assenza di visione, di strategia di questa banca. Però hai visto le dichiarazioni di Morelli? Ha detto chiaramente che gli investitori istituzionali si sono astenuti dal prendere decisioni prima dell'esito del referendum. Quindi io posso dire, non posso incolpare una banca per quello che in realtà è l'opinione diffusa degli analisti e degli investitori istituzionali. Fanno male gli altri a pensarlo o fa male la banca a dirlo? Questo che vorrei capire, perché diciamo a me risulta che sia un'opinione diffusa e consolidata negli investitori istituzionali, cioè nessuno mette un centesimo sull'equity di questo paese prima del 5 di dicembre. Secondo me, sono d'accordissimo, secondo me hanno fatto male a dirlo in maniera ufficiale, in modo che compaia su tutte le testate, su tutti i media. Oppure ha ragione Mario, e invece hanno fatto benissimo a dirlo, perché è veramente elemento di pressione. Cioè, se è vera la teoria dei giochi di Mario, questa è un'interpretazione legittima. Certo, un elemento ricattatore, non c'è ombra di dubbio. È chiaro, si sa, soprattutto lo sanno gli operatori, che c'è un legame intimo tra banche, rischio politico, mercati, economia, no? Le banche non sono aziende come tutte le altre, sono aziende che sono essenziali per il funzionamento della macchina economica. Però un conto è saperlo e un conto è farlo finire sulle prime pagine di tutti i giornali. Quindi, infatti, secondo me questo è o è molto astuto o è molto stupido. Esatto, sono troppo astuti, sono troppo stupidi. Io però non riesco a capire una cosa, perché siccome, voglio dire, stiamo parlando di una banca in cui le difficoltà praticamente a reperire nuovo capitale e il conto netto lordo del suo balance sheet rende il suo valore praticamente quello del diritto di opzione all'aumento di capitale, vi chiedo di correggermi perché c'è qualcosa che non mi torna. Allora, il valore di questo diritto che... va distinto tra un subordinato e un senior. Come fa a essere la stessa cosa? Cioè, scusate, altrimenti violiamo le cose fondamentali, no, del pari passo e così via. Ripeto, siccome è una banca che ha questa caratteristica, che caro Alberto, qui chiedo al professore in questo momento, non all'amico eccetera eccetera, è proprio una violazione che io non riesco a capire, ecco. Io vorrei dire che tanto non è una violazione nella misura in cui è una proposta volontaria, poi come fa giustamente Raffaele, dice bisogna fare quattro conti su questa proposta. Finché è volontaria non stiamo violando nessun pari passo, anzi sono fior di banche fuori là che stanno pensando, ricordo anche Unicredit, di fare buyback, cioè di fare un'offerta ai propri obbligazionisti dicendo: sai che c'è, ti ricompro quello che ti devo diciamo restituire fra qualche anno, ovviamente a sconto, però rispetto ai miei calcoli finanziari, siccome ho uno swap che mi protegge, alla fine mi conviene. Queste operazioni sono sempre esistite e tutto sommato sono sempre state fatte. Il vero problema oggi è toccare il Santa Santorum dell'obbligazione bancaria, che ricordo essere, insieme al BTP o al titolo di Stato, uno dei due pilastri, ce lo spiegava Consob non più tardi di un mese fa, per cui l'Italia è, come dire, ha comprato la cedola, no? Gli italiani hanno comprato per decenni la cedola dello Stato e la cedola delle banche, dice: non ne voglio sapere, fate voi. Toccare l'obbligazione ordinaria, chiamiamola così perché forse il nome è corretto, no? L'obbligazione ordinaria vuol dire toccare uno dei pilastri su cui è stato costruito il welfare del risparmio italiano. Questo poi è l'elemento più sconvolgente, sono d'accordo con Raffaele, questo mi ha fatto sobbalzare sulla sedia, perché andiamo a toccare un pilastro. Ci ho detto, il tecnicismo del pari passo, quindi della condizione che va rispettata, delle seniority, in questo momento non è ancora stato violato. No, esatto. E mi auguro che non avvenga, anche esatto, se c'è qualcuno in questo paese che ancora pensa che certe operazioni possano essere fatte sugli istituzionali e non sul retail. Quella era la violazione. Questa era la violazione, del pari passo, no? E chi cita il Portogallo non si ricorda che quell'operazione è stata fatta l'anno scorso, quando si poteva in un certo senso ancora fare, e comunque quella operazione è soggetta tuttora a un ricorso pesantissimo da parte degli istituzionali. Esatto. Quella discriminazione sul titolare dell'obbligazione invece assolutamente va respinta, e invece molti giornalisti dicono: no, penalizziamo gli istituzionali e invece tuteliamo le famiglie. Le famiglie vanno tutelate da un altro punto di vista, per esempio se hanno un problema di patrimonio e di reddito, allora vanno tutelate, ma non in quanto retail hanno diritti diversi dall'istituzionale. Questo va precisato, altrimenti cade tutto il costrutto del seniority. Ribadiamolo che siamo andati avanti per settimane sulla stampa di questo paese a leggere: verranno coinvolti solo gli istituzionali sì, non i piccoli risparmiatori che avevano lo stesso identico titolo subordinato con lo stesso codice ISIN. Ripeto, visto che oggi mi ripeto, se vogliamo continuare a prenderci per il culo, bravo, andiamo avanti. Però quando ve lo si fa notare, non venite a dirci che siamo gufi, disfattisti, che andiamo a vilipendere l'inno nazionale perché ci sarebbe anche sta rottura di coglioni perché a intervalli regolari ritorna. Non diciamolo, perché negli ultimi mesi abbiamo sentito delle cose indegne sui giornali che sono filtrate ad arte. Cose su cui, mi spiace dirlo, ci sono alcuni principi della penna che hanno costruito la loro carriera e continuano a costruire la loro carriera pontificando, e sarebbe anche ora di finirla prima che il meteorite ci arrivi sul collo. E ecco, si è detto da un modesto blogger, vero Mario? Si è detto da un modesto blogger alla ricerca di pubblicità, signore. Va bene, okay? Va bene. Allora, e su queste parole che io sottoscrivo mani e piedi con tutte le possibilità che ho, noi ringraziamo Raffaele Genti di essere stati con noi e torniamo dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. 18 primi, 31 secondi dagli studi della Piovosa Milano, i compagni di Conti della Belva tornano a salutarvi, Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ed iniziamo con qualche telefonata, poi arriveremo con qualche telefonata, qualche messaggio, poi arriviamo ad occuparci della questione, ma su Trump non si esagera un po', un filino troppo, a parte il fatto di vedere se vinca o meno, ma sulle conseguenze che potrebbero scatenarsi sui mercati mondiali. E poi la Brexit, messa a ginocchio perché bisogna rispettare la decisione che aspetterà il Parlamento. E come ai valloni abbiamo detto che il loro Parlamento non conta niente, ma insomma, che idea abbiamo della sovranità in Europa? Ecco, queste due questioni, ma tra poco cominciamo intanto con gli ascoltatori che ci hanno chiamato per la questione di cui abbiamo parlato prima, le banche. Cominciamo con Emanuele da Ancona. Emanuele, prego. Buongiorno, dottor Giannino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io vi ascolto sempre e non ho capito la differenza di trattamento tra Banca Etruria e Banca Marche, e invece qui con Veneto Banca che è intervenuto il Fondo Atlante. Io vi seguo sempre, però non ho capito la differenza di trattamento o qual è stata la differenza e perché qui è potuto intervenire il Fondo Atlante. Lei è un ragazzo sagace, bravo, ci segue. Quindi vorrei sapere a chi mandarle. Vorrei sapere proprio chi è stata. No, a chi mandarle o chi mandare? Non esageri con l'ironia, perché noi cogliamo e ridiamo, ma poi sugli ascoltatori. Domanda chiara. Posso rispondere io? Per un motivo molto banale, perché il paziente zero in ogni grande epidemia è quello che muore per primo e tentativamente indica la strada per le terapie a quelli che vengono dopo. Tentativamente, come dicono gli anglosassoni. Questa è una risposta molto cinica e brutale, ma credo che sia parte della vita la risposta cinica e brutale. Vista la cura delle quattro banche, hanno deciso di applicarne un'altra e lo hanno deciso con grande sforzo. E qualcuno si è già pentito anche della cura, caro ascoltatore, mi spiace dirlo. Devo dire che le dichiarazioni rese ancora ieri da Penati per questi Sager e per Atlante fanno capire poi che in definitiva chi fino all'inizio ha criticato come velleitaria l'operazione, la finalità attribuita ad Atlante, che ripeto nelle slide iniziali era riprezzare l'intero equity e l'intero monte dei crediti deteriorati delle banche italiane, cioè un'opera un po', ecco, uno legge ieri quello che dice Penati e capisce che forse qualche ragione per criticare ce l'avevamo. Ecco, detto questo, mi rendo conto che al nostro ascoltatore la risposta non sembrerà molto soddisfacente, però di fatto è un processo che ha distinto le modalità di intervento dopo essere arrivato tardi e male a fare quello che però derivava da norme di cui sapeva da anni che entravano in vigore e che ha detto a voi di avere combattuto strenuamente perché non avvenisse. Marcello da Cesena, che ci dice Marcello? Buongiorno, grazie per lo spazio. Io mi definisco purtroppo un azionista di Unicredit da qualche anno e a seguito delle problematiche che stanno avendo i vari istituti bancari, fra cui anche Unicredit, ho cercato di interloquire direttamente con l'amministratore delegato, il presidente e il consiglio di amministrazione, ponendo dei quesiti direttamente a loro tramite mail dedicate o anche raccomandate, ottenendo risposte. Inizialmente sì, molto vaghi, cioè quando è stato lo scorso anno a novembre il nuovo piano riguardante l'istituto bancario che ha perso subito il 10%, ho chiesto: ma per quale motivo secondo voi perde il 10% dell'istituto bancario in una settimana? Loro mi hanno detto: ah, il petrolio, la Turchia, i problemi con la Russia, cose di questo genere. Poi dopo ho cominciato a porre, quando c'erano delle grosse notizie, ponevo direttamente, chiedevo a loro direttamente qual era secondo loro il motivo, come ad esempio Trento quest'anno Penati ha fatto delle questioni molto pesanti contro il consiglio di amministrazione di Unicredit, comunque l'amministratore delegato, anche i soci per carità, sì. E lì non ho più ricevuto assolutamente nessuna risposta, zero totale. E rimango molto basito che un istituto basato sugli azionisti, magari per carità io sono un piccolo azionista, però non dia assolutamente risposte a delle domande che ritengo anche lecite, perché se Penati dice certe cose, io ho chiesto di fare semplicemente una verifica interna e se c'era qualcuno che aveva sbagliato andarlo a ricercare e comunque agire nei suoi confronti, perché se c'è un funzionario, un dirigente, chiunque sia all'interno dell'istituto bancario che ha fatto dei gravi errori, bisogna perseguirli questi errori a danno degli azionisti e di tutto l'istituto. Cosa che invece non mi ha dato assolutamente risposta, anzi per questo infatti stavo meditando un esposto in Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, per cercare di capire cosa e come un piccolo azionista si possa tutelare anche a riguardo di queste situazioni. Allora, intanto Marcella, io la ringrazio perché lei ci consente e consente al nostro ascoltatore di capire che la situazione, noi siamo partiti da questo accenno di MPS in relazione all'assemblea sulle obbligazioni ordinarie da convertire anch'esse. Abbiamo ricordato cosa capita alle quattro banche, le good bank voglio dire, abbiamo capitato la cosa che non ci torna di Carige, però l'aumento di capitale che è in itinere di Unicredit è un'altra tessera fondamentale del motivo per cui i mercati sono preoccupati dell'Italia, perché noi siamo in attesa di capire quanto sarà questo aumento di capitale, caro Alberto, 10, 11, 12, 13, 14, si è arrivati fino al range di 14 miliardi, adesso Unicredit ha accelerato il ritmo delle cessioni di asset. Più che di aumento di capitale, di colmare un gap di capitale, perché Unicredit ha tanti asset e se li sta vendendo, questi asset potrebbero tranquillamente ribilanciare il quadro e può anche ribilanciare il suo portafoglio. Non è una situazione comparabile con quella di altre banche, oggettivamente. Però il segnale è molto forte: la Banca Centrale Europea vuole alzare l'asticella dei requisiti di capitale minimi e vuole continuamente farlo, quindi non pensiamo che i livelli attuali siano diciamo sufficienti, perché l'intenzione è quella di alzarli molto molto di più. E guarda caso anche la banca di cui parlavamo prima sui colli fatali del Chianti ha un problema, che la tendenziale richiesta di livelli di capitale è in aumento. Questo può succedere anche per due banche recentemente fuse, una di Milano e una di Verona, e le quali sono partite con un livello di capitale e potrebbero dover essere costrette a fare un aumento di capitale anche se loro. Il problema che dicevamo prima con Mario è che l'accesso al mercato dei capitali delle banche italiane oggi, a parte qualche caso, appunto abbiamo citato Intesa e poche altre, è praticamente precluso, e non è solo questione del 4 di dicembre, è proprio questione di redditività. Posso dire una cosa. Mi ha colpito molto qualche settimana fa una dichiarazione del capo di Credit Suisse, Tijan Thiam, che sta cercando, diciamo, faticosamente il turnaround, comunque una banca maledettamente sistemica, grande un multiplo del PIL della Confederazione Elvetica, che ha dichiarato al Financial Times: io temo che le banche in questo momento, le banche europee immagino, non siano investibili, cioè che non sia... che non riuscirebbero, chiedendo soldi al mercato, ad ottenerlo se non a prezzi elevatissimi e svenandosi. Questa è una cosa veramente che mi ha colpito molto, perché è quasi da fine dei tempi, no? Da fine di un'epoca. Ma è una cosa su cui riflettere, perché se banche che sono comunque sane e perfettamente funzionanti come Credit Suisse hanno il capo azienda che riesce a dire una cosa del genere, pensiamo a cosa dovrebbero dire effettivamente banche che operano in contesti economici molto difficili e sofferenti come le banche italiane. C'è chiaramente chi, come Intesa, fa benissimo, ma pare essere l'unica. Al netto, no, poi capisco che ci sono altri nomi che però sono molto più attivi, diciamola tutta, nel private banking, sì, e sì, wealth management, nel quindi management, non fanno banca. No, no, si prendono molto, no? meno rischi, esatto, usano gli attivi in logica distribuita, cioè è un altro permettimi, mestiere. Permettimi, a me viene da sorridere quando vedo pubblicità di, con il CET1 al 17, 18, 19% da parte di banche che sono private banking. Cioè che non fanno credito, esatto, si limitano a intermediare, a vendere fondi e prodotti di risparmio ai clienti. E è grazie al piffero che hai il CET1 al 20%. Però Mario, per una famiglia, scusami... Cioè, no, ma infatti ci si la verità è che il modello di banca universale che ha raccolto localmente, ha investito localmente, oggi fa acqua, perché quel rischio concentrato è difficile da gestire. Mentre raccogliere per investire in risparmio gestito, posto che deve essere trasparente e fatto con i criteri di efficienza, e qui arriva la MiFID 2 e arrivano altri strumenti, io non lo trovo sbagliato in sé, è il modello di banca universale che non regge più, soprattutto perché è una struttura di costi, amici miei, che non regge. Ah, esatto. Questa è la verità, che quel modello di raccolta impieghi locali, lo dico con rammarico, non regge più per la struttura dei costi e per, fammi dire, gli skill che non sono sufficienti, perché la misura del rischio locale non è oggi interpretata correttamente dalle competenze bancarie. Con tanti saluti alla retorica delle banche territoriali e locali, su cui per tanti decenni siamo andati avanti. Sì, che pure hanno informazioni qualitative, figurati, io lo scrivo da tanti anni, hanno informazioni qualitative importanti, ma non bastano più. Esatto. Cioè, è chiaro che dobbiamo sommare l'esperienza qualitativa relazionale dall'esperienza, dalle competenze analitiche moderne, perché senza questi due pilastri non si va a banca oggi. Traffico! Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati, qua sono le 11:19, primi siamo in ritardo di qualche minuto, eccetera, eccetera, ma dobbiamo affrontare questi due problemi. Primo, ma non è che tutta quest'area è la fine del mondo, perché molti si sono spaventati avendo a cuore l'elezione di Hillary, e quando l'elezione di Hillary si è riaperta per via dell'indagine dell'FBI sulle mail, l'indagine, questo è un bias da sempre su Hillary Clinton, su, non prendiamoci per i fondelli, non abbiamo riscoperto adesso, non è l'FBI che è cattiva, è che è un difetto fondamentale per un segretario di Stato che ha questo difetto fondamentale, che dice io sarò un buon comandante in capo, però è un difetto fondamentale. Dall'altra parte però adesso terrore, oh, se vince Trump i mercati saltano, mio Dio cosa succede, eccetera eccetera. Questa è un'elezione con due candidati cui difetti sopravanzano in entrambi i casi, e non voglio mettere sullo stesso piano i vantaggi, ma la domanda è: stiamo esagerando sui mercati a dire, a ripetere che salta tutto per aria? E secondo, ma nella stessa settimana, ma come l'assemblea della Vallonia viene bastonata e si rimangia tutto perché aveva detto no al trattato col Canada? Viene bastonata, io penso per buone ragioni economiche, ma il problema non è la ragione economica, viene bastonato il principio che un Parlamento può dire no. E però nella stessa settimana tutti applaudono al fatto che invece i giudici dell'alta corte inglese, per ragioni solide, dicono al governo di Theresa May no, ti devi inchinare a un voto del Parlamento. E allora capite che però qui dobbiamo riconciliarci con noi stessi, cioè che idea di legittimità, di rappresentatività e di sovranità abbiamo in Europa? Cioè conta solo qual è l'esito della scelta da fare? Oppure chi è il depositario? Il popolo? Le assemblee rappresentative? Bruxelles come volontà sovranazionale? Sui Valloni ha vinto Bruxelles. Sul governo e il Parlamento britannico vince un principio diverso, che, perché in base al principio britannico avremmo dovuto dire ai Valloni ci inchiniamo di fronte al voto Vallone, e quindi il trattato col Canada vedremo, ma si blocca. Allora, per questo innanzitutto è con noi Cristina Marconi, che io ringrazio, collega giornalista che sta a Londra, scrive di Gran Bretagna e non solo di Gran Bretagna, però da tempo freelance, scrive per Il Foglio, per Il Messaggero. Grazie di essere con noi, Cristina. Ciao Oscar, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, a prescindere dal tifo o dalle tue preferenze, se sia opportuna o meno questa decisione dei giudici dell'alta corte, io ti favo sfegatatamente invece per la grande Gina Mail che l'ha portata avanti, cioè per questa attivista finanziera, sì, brillante, bellissima donna che per me è un idolo. Ma detto questo, io lo dichiaro, tu non lo devi dichiarare, ma detto questo... Ma anche il parrucchiere però. No, il parrucchiere è fenomenale. Devo dire. il parrucchiere brasiliano. No, perché come sempre la storia avviene attraverso gambe che sono insospettabili, cioè i cittadini dal basso, e anche per questo è bellissimo secondo me il modello della Gran Bretagna. Ma lì come viene presa questa storia? Perché ammettiamolo, la questione di dire pesa il Parlamento quando quattro giorni prima gli stessi hanno detto non deve pesare il Parlamento della Vallonia è un po' un argomento che a favore dei Brexit e dei Leave, o no? Allora, secondo me questa storia è stata presa male, perché comunque da una parte è vero che la sentenza è assolutamente sacrosanta, la storia di Gina Miller è bellissima e effettivamente insomma la May col Parlamento non voleva avere molto a che fare, ma effettivamente la May ha avuto proprio una strategia anche molto, molto riservata finora, poco sulla stampa, parla poco. Il problema è che la May aveva una strategia e deve vedersela comunque sia con delle forze nel paese che sono arrivate a dei livelli di veemenza nell'espressione e nella presa di posizione, insomma, abbastanza grave. Non ci dimentichiamo che qua è stata uccisa una deputata a giugno. Sì. E quindi quello che sta infatti succedendo, io sono sobbalzato insieme ad altri quando ho visto Daily Mirror che metteva i nomi dei giudici dell'alta corte, le fotografie dicendo nemici del popolo, tutta la prima parte, sì, dicendo popolo, che uno era gay e che era veramente imbarazzante, ma ricorda qualcosa di casa nostra, a me ricorda la Nord Corea, se posso dire. Vabbè, okay. ma la Nord Corea, ma solo Zimbabwe, anche ha detto qualcuno, no, è quello che invece un altro tabloid che invitava i cittadini ad agire contro queste persone, cioè è pericoloso, c'è un clima pericoloso in questo momento. E poi c'è anche il paradosso che il Parlamento, soprattutto, vabbè, i problemi sono due, perché da una parte c'è la Camera dei Comuni che comunque ha dei rappresentanti eletti, poi ci sono i Lord invece che fanno un po' quello che vogliono, infatti la vera paura è il voto dei Lord, in cui tranquillamente possono bloccare o comunque sia ritardare decisioni senza dover rispondere a nessuno. Il problema è che la Camera dei Comuni in questo momento ha una frangia di Tory totalmente spaccata, nel senso ha due partiti totalmente spaccati, perché Corbyn non può, ha un partito parlamentare che lo odia. La May sa benissimo che il momento in cui si riapre il vaso di Pandora del Parlamento si trova a ridover parlare con tutti quegli euroscettici che sono quelli che hanno costretto Cameron, che ha dimostrato poca leadership, anche poca lungimiranza, lo vediamo, perché pure questa, voglio dire, poteva essere forse gestita prima, no? Con un bel bill fatto bene in partenza. E lei si ritroverà a dover lottare con gente inferocita, per cui secondo me dentro di sé aveva pensato: io cerco di tenere, di volare bassa, cerco di ingraziarmi quella parte di opinione pubblica che legge i tabloid di qui sopra, dicendogli che insomma che loro sono bravissimi, che sono i cittadini che ho in mente e che farò di tutto anche con delle politiche espansive per andargli incontro. E dall'altra parte cercare di portare a casa questo risultato. Io non sono assolutamente sicura che questo metodo porterà una Brexit più morbida di quella che aveva in mente Theresa May. Perché secondo me Theresa May, come ci siamo già detti qualche settimana fa, ha un grosso problema di branding in questo momento. Deve posizionarsi come l'eroina del popolo per poi evitare di distruggere il paese, ovviamente, perché quello è anche la cosa più non importante. Secondario, scusate. Non secondario. Quindi in questo momento, diciamo, io quando ho visto la sentenza e tutti quanti dire: ah, che bello, adesso la Brexit non c'è più, beh, insomma, io mi prevedo più una roba, una bella agonia con interparlamentari. Allora, però Cristina Marconi ci consegna un grano di saggezza per quello che mi riguarda. Attenti in questa specie di contraddizione permanente tra i livelli di sovranità, tra i depositari della sovranità prioritari che identifichiamo nella crisi di legittimità della sovranità che è a tutti i livelli in Europa. Attenti, perché la questione di fondo è invece anteporre: ma questa roba qua alla fine è gestibile meglio o peggio di quello prima? Tu ci stai dicendo, siccome la me comunque deve giocarsi la partita con il popolo del Leave, e mica è detto che sia meglio, è così? Secondo me non è detto che sia meglio, oltre al fatto è totalmente assurdo chiedere a qualcuno di andare a negoziare a Bruxelles con una strategia votata e scritta, cioè non è, voglio dire, non è strategico, non è nell'interesse del paese. E poi dall'altra parte vuol dire semplicemente che a un certo punto lei, a parte il fatto che noi stiamo parlando come se questa cosa delle elezioni, cioè ci sono tre deputati, cioè se n'è andato Cameron, se n'è andato Doug Goldsmith e ieri se n'è andato un altro, quindi abbiamo tre by election, che è una situazione un po' brutta, quindi noi stiamo ragionando come se non ci fossero delle elezioni possibili a un certo punto. Però voglio dire, lei si ritroverà a dover concedere molte cose in più, rifare una cosa di facciata per cui euroscettica, perché comunque non ha dimostrato di avere la leadership necessaria per per muoversi in queste acque così bene. Secondo me lei aveva una strategia non stupida, però finora, diciamo, anche il fatto che abbia preso un profilo così basso, ecco, non è che lascia ben sperare. Allora, ok, quindi per chiusura la prima riflessione, non elogiamo, non esultiamo troppo, cari europeisti, non è affatto detto che l'ottima, almeno per me, decisione dei giudici dell'alta corte si traduca in un percorso meno problematico. E adesso, caro Alberto, visto che tu siedi in consiglio di amministrazione delle società americane, di ai nostri ascoltatori, ma se vince Trump, ma succede davvero l'ira di Dio? Che ma tutti certo che no, ma certo che no. Oh, mi italiani, io mi nutro un po' di più della voce americana su quello che sta succedendo su Trump, posto che a me non è simpatico, ma è un uomo intelligente e abile. Io ricordo che un anno e mezzo fa ero ad Atlanta, nella sede della CNN, il giorno in cui lui si candidò, e come prima uscita pubblica per candidarsi, insultò selvaggiamente una giornalista bionda della CNN. Io capii in quel momento, esattamente in quel momento, questo uomo ha capito cosa deve fare. Come lui si sta proponendo, non fa risolto a nessuno, tantomeno ai giornalisti. No, ha capito cosa deve fare per farsi strada in un dibattito politica americana. Si è proposto come un non politico. Ricordo che ci è capitato qualcosa, se non sbaglio, una ventina d'anni fa, anche sì, a noi, qualcosa, sì. Di successo personale. Però al di là di questo, c'è un pezzo della pancia americana che considera Trump guascone, volgare, ma tutto sommato problemi suoi. Quindi è successo anche alla famiglia Clinton, tutto sommato, di avere qualche piccolo problema domestico. Come interprete di una leadership invece gli dà credito, e secondo me ha diritto di provarci l'America a fare i suoi begli errori. Tutto sommato invece Clinton è un piatto, una minestra alquanto riscaldata, se posso dirla, quindi molto riscaldata, una, posso dire che è una ribollita più che una passata. E ciò detto, ci sono due punti economici che voglio fare, non a difesa di Trump, ma cercare di comprendere, di perché sennò ci primo, lui dice gli americani non possono continuare a fare i consumatori di ultima istanza del mondo, dobbiamo ribilanciare la bilancia dei pagamenti. Secondo, in particolare lui dice sempre cinque paesi, la Cina, il Messico, Corea del Nord, eccetera, eccetera, e vuole riportare in America la produzione. Ci sono due sfumature importanti su questo. Primo, che secondo me è una cosa saggia avere una bilancia dei pagamenti tendenzialmente equilibrata. Sì, ma loro la fanno però devastando il libero commercio. Appunto, vediamo il come. E bisogna vedere se coi questo muri, avviene, no? Però, è la stessa cosa che propone qui Tremonti e Forti, sì, cioè, ed è sbagliato, il mezzo è sbagliato, però il fine non è sbagliato, soprattutto se viene invece ottenuto non coi dazi ma con una reindustrializzazione tecnologica. E scusami, sai perché faccio il tifo su questo? Ci sono gli elementi invece per un altro modello di reindustrializzazione con l'informazione organizzativa. C'è l'ultimo punto, scusami, che riguarda invece il ruolo del poliziotto del mondo, dove invece è più pericoloso quello Trump, perché mentre sulla politica interna avrà congresso schierato a difesa dei principi liberali, quindi non avrà le mani liberi, sulla politica estera invece secondo me è pericoloso. Secondo me, no? Lui ha il congresso contro, vince Trump ha il congresso contro in ogni caso, sia che il congresso resta maggioranza democratica, sia che il congresso diventi repubblicano. Però sulla politica estera, come sai, ha poteri grandi, però che effetto ha? Che farà aumentare le spese militari dell'Italia e probabilmente anche della Germania, che ha fatto il free rider in questi 50 anni. E come no? Ma se Putin si piglia tutta l'Europa occidentale, guarda, allora, da vedere. Quando Putin dopo, si prende con tutta il l'Europa isolazionismo di Trump, Putin applicherà il modello Crimea alle tre repubbliche baltiche, il cui 30% della popolazione è russa. Avremo qualche problema, noi lo avrà la Merkel, lo avremo noi a ruota. Io dichiaro ufficialmente che se questo dovesse capitare, che è la grande paura che si vive in Estonia, chiunque li conosce sa che è così, se dovesse capitare questo, io mi dispiace, Radio 24, ascoltatori, io divento volontario e vado a combattere per loro. Ma davvero, posso dire, ma lo dico perché la considero... No, non stiamo esagerando con Putin e l'Ucraina. Io ho una compagna di banco russa. Putin, l'Ucraina, anche lì tu con la compagna di banco russa fai altro. Ma fai altro, non fai la politica. Diciamo sciocchese. No, state esagerando la reazione della Russia, che si è sentita accerchiata e ha reagito. Secondo me si è sentita accerchiata. Sì, è così. Adesso va bene. Qualcuno deve pure fare le posizioni dialettiche. Sì, ma ti sgamano. Guarda che ti sgamano, che stai trollando il mondo con questo intervento. Ti sgamano. Detto questo, a me fa molto sorridere. Mi piace molto il mix delle politiche economiche che hai descritto, perché la parte anti cinque paesi di commercio mondiale è Tremonti più forti, in chiave italiana. La parte poi dazi, leader, per difendere gli operai della Rust Belt americana, e la parte che qui fa rifondazione comunista. Trump è la somma singolare di Tremonti, Fortis e rifondazione e Bertinotti. Devo dire che infatti per questo è meraviglioso, però in chiave italiana sì, io però mi gratto un po' non testa, puoi giudicare una politica sulla base, diciamo, delle cattive compagnie. Devi entrare nel merito. Posso smitizzare il dibattito fatto su Trump, che è stato impostato infatti, correttamente su comportamenti personali soggettivi volgari, in pochi minuti sintetizzato invece, in maniera ironica, ma meglio secondo invece, me se la gente si abitua, perché secondo me succederà che si svegliano e improvvisamente Trump è presidente degli Stati Uniti. Io me lo aspetto sabato prossimo, ne parliamo. Vabbè, deve vincere tutti gli swing states, questo mi pare improbabile, però alcuni le può vincere, poi vediamo, tutto può avvenire magari nelle prossime 24 ore, perché molti hanno anche già votato, o magari esce fuori una delle mail sospette di Hillary a quel però punto ma vi sbagliate, non è un tema di October Surprise, qui la gente sta profondamente cambiando in America la volontà di votare. Guarda che il problema non è chi quanti vota, ne porta ma quanti, più? Esattamente quanti, ne siccome i neri e gli ispanici non stanno votando, questa white è la verità, power is coming again. Ma no, questo, è che invece la pancia dell'America bianca è stata spinta da Trump a votare. Ha detto white power is coming again, ok, no, rappresentanza dalla radio del chi non vota Klan, sempre torto. Stiamo trasmettendo. Fermate Carlo Alberto, sta indossando un cappuccio bianco. Oh mio Dio, sta partendo con un cavallo, c'ha la bandiera confederata. No, torniamo tra un minuto, lo dobbiamo riacchiappare. Conti della Belva. È subito partita la sigletta felliniana di 8:30 con cui la nostra puntuale rubrica di scegliere una delle comunicazioni e dichiarazioni italiane, internazionali, politiche, economiche, finanziarie, banchieri centrali, per capire però un po' i paradossi che in queste frasi si celano, a volte gli eccessi, altre volte i messaggi, per così dire, a suocera perché nuora intenda. E oggi il messaggio sono le dichiarazioni, uno del banchiere centrale tedesco, ma non tanto quello, quanto quello contestuale del potente, affidabilissimo almeno per me e credibilissimo, questo sono davvero io a pensarlo da sempre, ministro dell'economia tedesco Schäuble. E Mario Seminario, nella parte che noi lo sapete, che gli facciamo fare un po' la parte come nei film di Kubrick, quello dello scienziato, che è il nostro Mario Seminario, è in quella parte lì, e adesso vi leggerà che cosa ha detto Schäuble. Io non l'ho trovato cosa ha detto Schäuble. Lo sapevo! Però posso dire che sia Schäuble che Lars Feld che quant'altri hanno detto che... il QE della Banca Centrale Europea ha finito i suoi effetti, che bisogna guardare non solo all'inflazione complessiva che è risalita, tranne che in Italia, diciamolo, nel mese di settembre, ma anche all'inflazione core. Singolarmente, però, Feld dice di guardare all'inflazione al netto dell'energia, non considerando anche gli alimentari, e quella sta salendo. A me questa cosa, però, adesso con tutto il rispetto, diciamo, mi ricorda molto gli errori che furono fatti nel 2011, quando c'era Trichet alla BCE, che con un'economia fragile e con una impostazione di politica fiscale restrittiva per volere tedesco, Trichet, con il petrolio che ebbe uno shock e salì intorno ai $120, con un'inflazione che stava salendo nella sua componente headline e molto meno nella componente core, alzò i tassi. Molti analisti considerano quello come uno un momento dirimente della esacerbazione della crisi. Per cui io capisco la posizione tedesca, diciamo, però bisogna fare attenzione perché probabilmente non c'è una pressione. Ora, sull'efficacia residua del QE della Banca Centrale Europea posso anche essere d'accordo, nel senso che io secondo me totalmente siamo d'accordo. Arrivati praticamente al capolinea. Esatto. Ecco, sul discorso delle pressioni inflattive ho sinceramente qualche dubbio. Quindi dopo aver ricordato l'argomento, fammi fare un'osservazione microeconomica sull'inflazione, che si deve confrontare con un eccesso di capacità produttiva. Inter che ha calmierato i prezzi strutturalmente, è difficilissimo oggi fare pricing perché il prezzo di un altro concorrente è just a click away, e col fatto che proprio i meccanismi distributivi, e parlo quindi dell'inflazione core, sono profondamente cambiati, e questo i modelli macroeconomici non l'hanno ancora capito. No, e soprattutto non lo capiscono quelli che invocano invece l'inflazione come dietro l'angolo, come la soluzione di tanti problemi. Detto questo, sui giornali italiani questa cosa è passata come tradizionalmente, due punti, i cattivi tedeschi attaccano l'ottimo Draghi, che invece deve insistere sul QE, deve andare avanti e liberarsi di questi orrendi cavalieri teutonici che con le loro obiezioni sono anti-europei, chiuse virgolette, però insomma, ecco, per capirci. Allora, è con noi per aiutarci a capire sia il merito tecnico delle osservazioni venute da Bundesbank e dal vertice della politica tedesca, sia il quadro in cui leggere, Udo Gumpel, consulente della settimana, giornalista corrispondente dall'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Grazie Udo di essere tornati con noi. Che ci dici? Ma io dico che in Germania è cambiato un po' il vento dell'opinione sul quantitative easing. Non è che esso i cattivi tedeschi dei quali io dovrei essere un rappresentante degno. Ti vogliamo bene per quello, Udo, ci mancherebbe altro, insisti. Oh, bravi. Allora, guardate, in Germania hanno fatto molto bene i conti, anche dei vantaggi del quantitative easing, della politica di Draghi, di inondare i mercati di 80 miliardi di titoli, cioè di denaro fresco stampato, creato dalla BCE. Però purtroppo adesso siamo arrivati abbastanza a capolinea, perché questo è un altro errore di prospettiva che molti in Italia fanno. Credono che non esista il resto del mondo, esiste solo l'Italia, resistono solo le regioni intra-italiane, nazionali, ma invece noi sappiamo dai dati americani che voi avete commentato negli ultimi giorni, che sono assiduo ascoltatori della vostra radio, delle vostre trasmissioni, che hanno detto chiaramente in dicembre negli Stati Uniti la pacchia finisce, ovvero alzano i tassi di interesse. Dunque la situazione europea dipende anche da questo. Poi consideriamo anche, senza entrare nel merito nazionalistico di un paese o dell'altro, i due fattori estremamente negativi in generale, un terzo negativo praticamente solo per l'Italia. Il primo fattore negativo di questo fiume di denaro che la Banca Centrale Europea, dunque Draghi, inonda, col quale inonda i mercati, è che ha azzerato la differenza dei debitori. Dunque, che tu sia un pessimo debitore. Ma piace molto allo Stato italiano questo, siamo allora, pessimi debitori. Bravo, esatto. Se tu sei un pessimo debitore, dei quali i tuoi creditori temono la bancarotta, se tu dietro a te hai le cascate di Niagara del denaro fresco, naturalmente tu non hai rischio. Ma adesso, in questi giorni, il famoso spread, che sembrava una parola dimenticata, sta salendo nei confronti addirittura che è la misura famiglia. Della differenza di, allora, tra i creditori. Bravo, i mercati internazionali che devono prestare denaro allo Stato italiano, perché non sono mica gli italiani che si comprano questi titoli, mica sono scemi, sono i creditori internazionali che si devono fidare, e loro si fidano un tantino in meno. Perciò non è ancora molto grave, però arrivo al secondo punto. Tu hai reso tutti i debitori uguali, perché non c'è più nessuna differenza tra un'azienda decotta e un'azienda fantastica, tutti pagano lo stesso prezzo. Questo è naturalmente deleterio. Poi c'è un effetto psicologico sul quale i tedeschi insistono molto. Se tu hai la certezza che non a babbo morto sarà pagato, ma continuamente ti arriva denaro fresco, chiaro che ti rilassi nella politica del risparmio, non del risparmio, ma di rendere efficiente la tua economia. Per me, quello che è successo, per esempio, nel rispetto anche dei pensionati, ma quelle allentamenti della Fornero, continui regali a nuove regole di prepensionamenti di là, di qua, per accaparrarsi il voto delle persone più anziane, e naturalmente in totale controtendenza di ciò che si fa nel resto del mondo. In Germania i democristiani adesso discutono la proposta di farla come in realtà era previsto anche in Italia, di legare l'età pensionabile all'aspettativa di vita. Dunque dovremmo andare a 75 anni in pensione, ragazzi, perché purtroppo, anzi bene, benemerita la nostra situazione sociale, di salute, però in realtà le pensioni, le nostre pensioni reggono 10-12 anni della vita del pensionato, non 25 come succede, o come 30 come il governo di nuovo promette. Dunque questa mannaia dei fatti si abbatterà prima o poi sui conti italiani, e qui a Roma si fa finta di non sapere nulla di tutto ciò. Qui si arriva alla fine di questa situazione, e allora anche la Germania, anche il signor Schäuble ha risparmiato un sacco di soldi nei tassi, però i conti tedeschi sono in surplus, non quello della bilancia dei commerciale o dei pagamenti, ma dello Stato. Vedi che siete cattivoni, no? Dovete spendere di più, te lo diciamo sempre. Ma cosa se li tiene per fare sciopero questi soldi? Non facciamo troppe ironie. Io devo ringraziare Udo Gumpel, perché come sempre, posso dirmi, mi immollo, perché dico, Udo Gumpel sarebbe il mio direttore ideale della 24, del Sole 24 rispetto a sempre. Suo direttore ideale, perché significa andare al nocciolo delle cose. Mi taglieranno le mani, la testa, non me ne importa niente. Invece di dare il colore degli schieramenti nazionalisti, noi dovremmo essere qua per spiegare alla gente che il rischio sovrano non solo non è bandito, ed è giusto che esista, che è diverso per la diversa prospettiva di dare solidità e sostenibilità ai conti di lungo periodo, perché è su questo che i mercati misurano il debito, è su questo che misurano le politiche pro tempore, cioè i deficit per anno, se aggravano o meno la condizione di sostenibilità di lungo periodo dei fondamentali di un'economia a bassissima crescita e a bassissima produttività ventennale come siamo noi. Ecco, io penso che noi dovremmo fare questa roba qua, ed è per questo che tutta la settimana abbiamo scelto il Udo Gumpel per commentare una frase in modo o nell'altro. Grazie, un abbraccio. Naturalmente ti toccherà darmi dei caffè quando andrò per strada, però detto questo, e soprattutto lo ripeto, perché subito mi ha mandato prima un sms, una cosa che dice: se i russi vanno nei paesi baltici non vai a fare volontario. Vi sbagliate. Se avviene davvero una cosa simile, che sarebbe una prospettiva di squilibrio mondiale a cui non voglio, io non ho dubbi, nel senso che bisogna fare delle scelte. Io ci sono stato da giovane tante volte in quei paesi, e la mia scelta sarebbe: se Putin manda i carri armati, gli europei, se ci credono, devono andare a dare una mano. Sì, naturalmente spero che non avvenga, che sia un eccesso previsivo, eccetera eccetera, però attenzione, il mondo dopo la Crimea riserva l'Ucraina e così via tante novità impreviste. Una squadra russa nel Mediterraneo con la portaerei, capite, non c'era mai stata, per essere chiari, ricordatevelo, perché è così. Grazie Udo, torniamo tra un minuto. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ecco qua, ci sono tornati in diretta. Voi non avete capito che in queste pause di pochi secondi, nel frattempo, Carlo Alberto, il fronte trompiano putiniano, ha avuto telefono. Perché io me lo trovo nei paesi baltici. Se arriva Putin, lui va a combattere. Fa l'università, fa una specie di università tecnologica russofona, capite? Cioè, io me lo trovo dall'altra parte. Va a introdurre le carte di credito, secondo me. Beh, no, lì sono molto più avanzati che da noi. Lì non hanno un livello, per così dire. Dobbiamo fare i volontari tecnologici. Di gap, in Estonia, di banda larga come la nostra, ecco, no, bravi, no, lì che c'hanno molte cose da insegnarci. Sono completamente d'accordo con sono te. Sono popoli straordinari nei paesi baltici per altre ragioni, però per le donne, questo lo sanno tutti, diciamo, i nostri ascoltatori, cioè, ed è adesso, si è trompisti non a caso, capite? Come dice l'avvocato Palomina. Allora, con noi Renato Cifarelli, dove sei Renato? Ah, buongiorno Belve, come state? Ci siamo divisi oggi. Con Putin, ci mordiamo. Oggi io non sono riuscito a ascoltarvi perché no, sono perché ad Alba a fare il vecchio giovane. Il vecchio vicino giovane. Ad Alba. Io sono vicino ad Alba a fare il vecchio giovane. Beh, Alba significa... sono un ex giovane imprenditore. Siamo c'è una cosa imprenditori e vi unisce la trifola, perché questo è il periodo d'oro della trifola. Sì, ma non sono. Si vede che ci sono i budget un po' bassi, niente trifola. Però quest'anno c'è un significativo rispetto all'anno scorso, sceso in basso. Addirittura Bloomberg ha fatto un lungo articolo sulla trifola index. Il trifola index sono anche il 30% meno, perché a luglio ha piovuto di più da quelle parti e quindi se ne è raccolto di più. Se ne trova di più dell'anno. Io poi per i fatti quindi mi dispiace, quindi ricordati degli amici oggi e porta qualcosa anche per me. Senti, allora di che cosa? Non ti chiedo se sei per Trump o contro Trump, perché abbiamo fatto abbastanza colore in questa trasmissione, però ti dico che caro Alberto c'ha un cappello del Ku Klux Klan. Aspetta, sta levando. No, c'ha pure una colta in mano in questo momento. No, inizia a diventare pericoloso. Allora, su cosa? Carlo Alberto ha le stesse passioni di Trump, dai, su. Lo so. White power. Anch'io. Va bene. Ci sono anche gli erristi sono progressisti. Senti, io volevo tornare invece su uno dei nostri classici da imprenditore, parlare di tasse. Perché continuo a leggere che hanno abbassato le tasse, no? E poi vai a vedere bene le cose e scopri che il 24% dell'aliquota delle tasse lo fanno abbassando i benefici dell'ACE. Sì. Che l'abbassamento delle tasse che strombazzano è il fatto che non fanno aumentare l'IVA secondo le clausole che non era ancora entrata in vigore. E quindi poi tu dici abbassiamo le tasse, ma le tasse vengono abbassate a parole. Poi se vai a vedere, come al solito, le tasse per le aziende l'anno prossimo ci sarà, è vero, il 24%, ma tolgono buona parte dei benefici dell'ACE. Perché è importante il discorso dell'ACE? Perché era quella che aiutava le aziende a capitalizzarsi di più, a capitalizzarsi meglio. E quindi premiava le aziende che invece di distribuire gli utili li lasciavano in azienda. Dall'anno prossimo questa cosa qua ci costerà un po' di soldini, nel senso che chi lascia i soldi in azienda sarà meno favorito e sì, pagherà un po' più tasse. Probabilmente c'è questo problema delle banche che devono da qualche parte mettere i soldi e quindi favorire il fatto che le aziende non si capitalizzino da sole. A volte mi viene da pensare male, insomma, diciamola così. No, non è da pensare male. Questa è una misura, la riduzione dell'incentivo ACE è una misura che chiaramente incentiva le imprese per la capitalizzazione a fare ricorso al canale bancario invece che al capitale proprio. Quindi non è che pensi male, è un effetto più o meno automatico, purtroppo. Un effetto automatico, come hai perfettamente ragione, che la diminuzione dell'incentivo è esattamente l'area in cui si reperiscono le risorse per dare l'IRI. Che cos'è l'IRIS? Dai microimprenditori la facoltà di assoggettare il reddito della propria microimpresa, non al reddito personale, quindi alle scaglioni aliquote progressive, bensì allo stesso 24% a cui scende con questa legge di bilancio dal 27,5% l'aliquota dell'IRES, a condizione che resti il denaro investito nell'impresa, il che significa totale contraddizione rispetto alla scelta opposta fatta nell'ACE. Così, in effetti, chiudiamo la trasmissione, così si spiega la differenza tra i meno 5,6 che sono il saldo netto delle minori entrate reale e i 23,4 annunciati da Padoan, perché è tutta la clausola di salvaguardia o quasi la differenza, cioè fuffa. Quindi abbiamo vinto noi, cari ascoltatori, la riduzione di entrate è solo 5,6 e mi dispiace che tutti i giornali italiani che mi hanno ripetuto le parole di Padoan si adeguano a propaganda vedendo meno a loro mestiere fare domande, rompere i coglioni. Noi siamo qua per questo, noi ci riesce benissimo. No.